molti film non li avresti neanche visto, perché con più tempo sarebbe collassato il sistema. Adesso invece anche con pochi mega puoi guardare qualunque cosa, perché c'è una negoziazione tra provider e il tuo computer, praticamente la tua rete, quindi si accorge che tu sei molto lento e quindi automaticamente abbassa il frame rate della trasmissione, quindi a posto di andare, che ne so, in full HD andrà in HD. Se anche l'HD è troppo pesante, scenderai, che ne so, fino anche a 240 come definizione. Come sta facendo da zona, ho visto, forse quando c'è troppa roba al carne al fuoco, diciamo, sono più utenti connessi, diminuiscono la compressione, lo standard, arrivano anche allo standard normale, cioè senza essere neanche HD, standard come si chiama TV. La cosa che volevo chiederti, visto che tu sei molto addentrato, ho notato una cosa strana, positiva per certi versi, normalmente a Sky ti colleghi solo una persona, con lo Sky Go quando ti sposti, c'era un periodo che si potevano collegare due utenti col telefonino, mentre con DAZN, come mai, non riesco a capire, ti puoi collegare più di una persona? Beh, probabilmente mi dici contemporaneamente, giusto? Guardare lo stesso evento, la partita, ce l'avevo guardata l'altro giorno, io da una parte della stanza e mia figlia con il fidanzato dall'altra parte, la partita, non so se era il Milano o la Juve, adesso mi ricordo. Sullo stesso account. Come? Sullo stesso account. E sullo stesso account? Beh, probabilmente è una politica che hanno fatto loro, ecco, di un tot numero di utenti. Prima, ad esempio, credo che ne dia uno, adesso non ricordo bene, Netflix per ognuno ti fa pagare, se ne vuoi due paghi qualcosina in più, se ne vuoi tre paghi qualche cosina ancora di più, e allora puoi vederli contemporaneamente, però quelle opzioni sono a pagamento di norma. Poi, siccome lo sai, io il calcio non lo guardo neanche se tra l'altro ce la dovrei avere anche gratis, perché c'era l'altra volta la Fiorentina, cos'era, su Netflix o su Prime, non ricordo, però io non ho mai guardato di quelle cose, non è il mio campo, so giusto che la palla è rotonda e basta. No, io le guardo molto volentieri. Vediamo se Luca Sertani ha partorito la chiavetta. Allora, 4 sta andando così e ci si lo toma la chiavetta, Robert. Qua dice errore, Legacy Bot, Wolf Media. Ah, sta continuando a dare errore? Sì. Partisce lo schema BNR, target, sistema, BIOS. No, allora, controlla che non c'hai qualche... guarda nel BIOS. Nel BIOS dille di andare a cercare il file d'avvio sull'hard disk principale dove hai fatto l'installazione, magari c'è, se lo sta andando a cercare chissà dove. Sì, però dice non è installato. Quindi dice questo errore. Ah, ma non l'ha installato, quindi confermi, non ha finito l'installazione. Ho fatto la sua installazione, vado al 100%, ho fatto il riavvio. Ah, mi sta dando questo errore. This drive can only boot in... vabbè, io non so pronunciare l'inglese, è un po' difficilotto per me. Comunque alla fine dice target system BIOS. Sta dicendo praticamente che non trova l'hard disk, una cosa del genere. Hai staccato tutte le pennine e tutto quanto, sì. Sì, certo. Vuol dire che non lo sta riconoscendo l'hard disk. È quello che stiamo dicendo. Lì quindi ora se non stiamo riconoscendo l'hard disk perché allora l'hard disk non sta andando bene. Che formattazione l'hai fatto? L'ha fatta lui la formattazione in sede di installazione? Io ho messo 10, a caricare il file, aspetta un attimino, ah ecco, no, aspetta, ci ho impostato male l'avvio, invece di dell'hard disk c'era la lettore DVD. Infatti te l'ho detto che stavo andando a fare il boot da un'altra parte. Adesso è a posto, adesso dovrà caricare, ecco qua, l'installatore di Windows 10, eccolo qua. Ah, speriamo bene. Incrocia le dita, Roberto. Buonasera anche a Natalino, ti sei fatto vivo di notte, stai uscendo, stavamo parlando di... Di cosa stavamo parlando? Di cuocuomani come lui. Allora le si sono drizzate le ricche. Sì, perché tu quando dici cuocuomane, allora lui esce subito, capito? Poi c'è Pedivella che sta mettendo la pedivella al computer. Maestro già glielo installa, non stavo riconoscendo l'hard disk. A lui non stavo riconoscendo perché pedivella cuocuomane. Aspettate che c'è forse qualcuno vuole entrare, avanti che vuole entrare. Ciao Mirko, ben sentito, compagnia mia di Claudio, di Natalino e di Gianfranco e di Luca. Vai qua. No, no, io saluto, dai, rimango in ascolto che sto mangiando e ogni tanto vengo qua. Ciao Mirko! Eia! Dimmi Mirko! No, no, stai arrivando, non ti preoccupare, arrivi benissimo. Vai Robè, fai girare. Ci sentiamo dopo se ci siete. Eia, Mirko, ti rilancio a Gianfranco e poi a Natalino, non so se ti ascolta, vai già. Sì, io lo sento abbastanza bene. Segnale, non è forte, però lo sento bene. Ciao Mirko, buonasera, ben ascoltato. Ti passo Natalino, se ti sente, avanti. No, non lo sento io, dai. Rimango in ascolto che sto facendo cosa qua. Ok, l'hai sentito a Natalino? Alghero, mi ascolti a me? Ok, ciao Mirko, dai, salutoni, Luca da questa parte. Io ti ascolto un po' bassino, segnale 1, radio 2, avanti. Ok, dai, va bene, non c'è problema, avanti, Robè, dai. Sta proseguendo bene, ti manda anche la foto su WhatsApp, Robè. Sta andando a gonfie vele. Comunque, anche le altre RAM che ho io sono 3 giga, non 4, 3 giga. E quindi cosa vuol dire? Non sono 4, ne ho 3. Vabbè, uguale, Robè, adesso vediamo come gira, dai, tanto a te ti serve per fare quello che devi fare. Non so poi cosa dice Gianfranco, se 3 giga sono pochi. Beh, l'ideale sarebbe 4, però se ne regge 3, insomma, già si può accontentare, ecco. Dipende tutto da quello che deve fare. Tutto lì. Vediamo un po'. Mirko, per curiosità, come mi ascolti di lì ad Alghero? Qua sta arrivando intorno alle 6:05-6, se ho visto bene. Ah, ottimo. Sto andando con 4 watt, quindi vuol dire che va bene. Ok, vabbè, va bene, ci aggiorniamo domani sperando che il tutto sia andato in porto. E adesso me ne vo anch'io. Quindi buona serata a tutti, buonanotte e alle prossime, riprendi Robè. Sì, anche io tra poco vado via, dai. Ok, grazie comunque della consulenza, dell'aiuto che hai dato, non tanto perché non ne capisco niente, tra di voi interpreti di computer, tu, Fabrizio e Luca, dai. Ok, ci sentiamo domani se coincide, o se no quando sarà. Ok, e avanti Luca per i saluti a Gianfranco, e poi Natalino, e poi Mirko. Ok, ciao Gianfranco, alla prossima, salutoni. Anche io mi assento, Robè, vado a portare il cane, ci siete dopo, se mi aspetti così ti do la conferma che il computer è a posto e poi vedo male di portartelo a 4 giga, ok? Riprendi Robè, fa girare. E adesso sono le tue mani, dai, adesso ti do anch'io, Ari, mandami un messaggio eventualmente, Luca, già tengo acceso il corso, WhatsApp è acceso, adesso tra poco vado via. Vai Natalino per i saluti, non c'è più, Mirko a te, il Vox, non ho capito, hai chiamato il Vox. E adesso, ma rispetto a ieri hai fatto qualcosa di diverso di microfono o tutto uguale? Allora, la radio è chiara a 5, il segnale sei quasi 9, coi picchi arrivi a 9, però forse è leggermente più basso di ieri, almeno mi dà quell'impressione. Di modulazione sto parlando, non di segnale, segnale più o meno, la radio è sempre chiara, pulita a 5, però ti sento forse un po' più basso come intensità di modulazione. Qua, ti ripeto, se rimane così va bene, più che bene, però rispetto a loro, vabbè, sono anche più vicini, niente, per il discorso della vicinanza influisce tanto, però forse a memoria, non mi vorrei sbagliare, ieri è leggermente più forte di radio. Il Mickey Kenny ce l'hai al massimo? Registrato. Ok, dai, facciamo venire avanti il break, che io tanto tra poco vado via. Avanti il break. Buonasera di nuovo, Roberto, Carlo, rientrato a casa poco fa. A Momma sta arrivando, super i 9,50 con i picchi. Via, perché poco fa poi con la macchina, diciamo, io vi sentivo tutti, ma devo avere problemino con quell'antennino, penso di cambiarlo. No, io ti ho sentito tutto il percorso, gli altri qualcuno non ti prendeva, io ho sempre 9, in certi momenti superavi anche 9, ti ho sempre tirato, ma la radio era bassina, però ti ho sempre beccato, non so se a me mi ascoltavi sempre bene. Poi sono arrivato sotto casa mia, parcheggiato sotto un albero e sentivo solo te, in effetti, non sentivo nemmeno Claudio lo sentivo, ma più basso, invece a te ti sentivo a bomba anche sotto casa. Va bene, diciamo siamo abbastanza vicini, ma mi ero vedato che nell'altra area di alghero pensavo che fossero più aperti di me, per dire Claudio o quelli altri che c'era, magari ti prendevano più forte, però qualcuno ti ha perso, non ti sentiva più. Sì, ma forse con quell'antennino non esco neanche molto bene. Tutto qui, quindi ho visto c'era qualcuno ancora, allora sono rientrato a salutare, perché poi non avevo avuto più la possibilità di salutare, insomma, me ne ero andato così in silenzio. No, non c'è problema, tanto adesso sto chiudendo anche io, per cui ti saluto, grazie del piccolo QSO, abbiamo fatto discorsi di computer perché c'era Luca che stava manipolando un computer che mi ha regalato Claudio, c'erano dei problemini, poi c'erano dei professionisti del settore tipo Fabrizio e come si chiama, soprattutto Gianfranco, che lui lo fa per mestiere, hanno dato qualche dritta ed è riuscito a sistemare il tutto. Ok, quindi vi saluto, ciao Carlo, ben sentito, ci risentiamo alle prossime, ciao Mirko, anche a te, risentiamoci alle prossime, Mario un po' prima, e poi non so se ci sia ancora Natalino o chiunque ci sia, saluto tutti, cuoretti da parte mia, ciao ciao. Claudio, era buonanotte a tutti, Roberto, chi c'era? Mirko. Un'ultima curiosità, quanto ti arriva Mirko a te, Carlo? Ecco, ci sia ancora, fa un passaggio, Santiago di 7 con picchi di 8, Radio 4. Quindi c'è una bella ricezione, complimenti, considerando che non hai una 5 ottavi, sarà una grande, lui mi arriva a 9, tutti gli altri ascoltano 6, 4, 3, però tu c'è una bella ricezione, molto aperta anche verso Alghero. Di nuovo, QRT, saluto tutti, ciao ciao, concludo. Una buonanotte a tutti, alle prossime. Ci spariti siete? Ci sono. Ah, Roberto è andato via. Mi ha chiuso adesso, forse devo andare a cenare. Gatta gaffa, tutti spariti. Claudio, sparito. Mirko, ci sei ancora? Già ando, sto io, sentiamo dopo se ci siete. Ciao Carlo. Ah, ce l'hanno, sta, ok, là, va bene, dai. Tanto ancora non ho finito, rimango un po', dai. Rimango un po'. Hai risolto, Lu? Sì, però la RAM è sempre 3. Sì, ciò è un pacco di RAM che è andato a farsi benedire, di quella c'è il V2. Però sicuramente è claro che l'umidità l'ha presa, perché davanti è un bel rigidito. E Lutto, l'ho detto, io non è che stavo guardando la ruggine, funzionamento funzionava, poi se farà dallo fumo c'è questi di chiappo, vabbè, l'importante è che sia ripreso, dai. Ok, sentiamo dopo, vai Carlo. A Roberto, me lo ricordi in che zona sei, giusto per regolarmi, così mi segno e così non te lo richiedo più? No, io sono Claudio, non Roberto. Claudio, tu non ci sono problemi, a te ti riconosco anche con la portante. Oramai, vabbè, adesso ho cambiato radio, questo è il baracchino, il Galaxy Saturn, ecco, con il K, c'ho questo tocco, ma anche qua si sente. No, io sono, diciamo, zona Monte Bianchino, vai, per capirci. Sì, no, di te. A proposito, Claudio, ho trovato Alessandro ieri al lavoro, gli ho dato i tuoi saluti, ricambia, mi ha fatto vedere tutto quello che sta combinando, praticamente si è fatto casa nuova e sopra casa, sopra il tetto ha messo i plinti, si è portato su un traliccio, una cosa enorme, enorme. Lo so, ce l'avevo anch'io, una cosa enorme, poi è chiaro che lui ha ancora passione, io non sono più appassionato e quindi ho lasciato un po' perdere, però è un grande radioamatore, l'attrezzatura ci vuole per fare attività radio e va bene così, salutamelo sempre, ogni volta che lo vedi, dalle un abbraccio grande a parte mia, siamo molto molto molto amici. ci sentiamo poi a farla cenare. Bene, senz'altro, già gli ricambio i saluti. Buona cena allora. Chi c'è ancora? Sì, a dopo Clara, sono qua, dai. Tanto ancora andiamo da fare. Sto facendo un'installazione e poi devo fare tutta la configurazione del Windows 10. Comunque io mi trovo a Monte Rosello, Carlo. Zona casetta in Canada. Va bene, Meda, adesso me lo segno, giusto per sapere, così magari a volte esco in macchina e faccio chiamate quando sono in quelle zone, va bene. Ok, allora se stai facendo eccetera ti lascio fare, comunque io sono, rimango in ascolto, nel caso qualcuno ha voglia di fare due chiacchiere sono qua in ascolto. No, io sono qua, no, già sta facendo lui, sta installando il sistema operativo, capito, e ne ho ancora, deve fare tutto da solo adesso. Ho capito, sì, ho sentito stasera che avevate problemi con computer eccetera, si parlava di tutte queste problematiche varie che però avete risolto, meglio così. Sì, non ci sono problemi, dai. Sempre magari quando c'è una persona in più, poi vabbè, in questo lavoro qua non si smette mai di imparare, ce n'è sempre tutti i giorni, ogni cosa ha il suo problema, comunque siamo, l'abbiamo risolto, dai. Ho fatto il cambio delle RAM che era da lì il problema e niente, però per quanto riguarda l'hard disk il suo precedente è danneggiato. E niente, io lo stesso i giorni scorsi che ha dato un po' di tregua alla pioggia eccetera, sono salito sul tetto e ho girato l'antenna, gli ho cambiato la polarizzazione da orizzontale, l'ho messa in verticale e diciamo che va molto meglio sia in locale ma anche a più lunga distanza. Per esempio avevo difficoltà a sentire Sorso, Porto Torres, ma anche Alghero, invece così nessun problema. Addirittura ieri sera ho provato a fare qualche collegamento a lunga distanza, c'era un po' di propagazione, ho parlato con questo Alessandro, zona Lecce, una quarantina di chilometri da Lecce, mi sentiva Santiago di Otto, Radio 5, mi ha detto a tratti mi sentiva un po' peggio, però diciamo che già va bene così come l'ho sistemata adesso, l'antenna va meglio. Vabbè, comunque ti arriva da fondo scala da me, non so quanto ci arrivo io a te, non so se è a fondo scala qua. Ora anche tu mi arrivi fortissimo, fondo scala, la radio bella, pulita, tutto a posto, a bomba. Qui colpa di Luca, lui me le ha smontate le antenne, Carlo. Quanto mi sono cagato qua, mamma mia. Sul traliscio, grande, sono quella quelle che hai visto, che ti ha fatto vedere Alessandro, Carlo. Perché anch'io avevo una 3 elementi della PKW, poi avevo una 5 elementi sempre PKW per i 6 metri, e mi dirà Luca, quando abbiamo abbassato il traliccetto, roba grandissima, pesante, 8 metri di boom con quasi 10 metri di radiali a polarizzazione orizzontale, cioè un bestione era quell'antenna. Mi immagino che sia stato in sicurezza, perché ho visto com'era Alessandro legato, mi ha fatto vedere una sua foto in mezzo al traliccio legato con la cintura di sicurezza, tutti i cordoni eccetera, è veramente pericoloso quando salire lassù. No, io non avevo bisogno di traliccio, io avevo un sistema telescopico fatto da Fabrizio, che avevo comprato da lui e qualificato a muro, però io traliccio ne avevo bisogno perché le mie antenne erano a 50 metri di altezza, mi dirà Luca. Ma come erano queste antenne in altezza, paurose? Non è tanto le antenne da sotto si vedevano piccole, da sopra si vedevano grandi, ma 50 metri di altezza, sono 50 metri di altezza, cioè io abitavo al grattacielo di Carbonazzi via Milano, capito? Quindi era 52 metri ubicata l'antenna, le antenne. Luca ha già fatto il filmato, si vede il mondo da lì. Sì, lo credo, lì sei proprio altissimo. Togari è bassa, no? Ehi, tu bassa. Ma attimino, sto facendo la configurazione, ho quasi finita. Ehi, è il palazzo che era alto, capito? Qua sono ancora più in alto, però sono a terra. Alto come altitudine dal livello del mare, più alto di lì. Però lì era alto il palazzo, quindi tu immaginati, io mi ho montato tutto da solo. Solo direttive sono venuti a darmi una mano proprio Fabrizio, Vanni di Alghero, gli amici amici di Alghero, qualche amico di Sassari, abbiamo montato tutto, ma non è una cosa per da fare solo. Poi per poterle smontare mi sono dovuto arrangiare con Luca e un altro amico e abbiamo dovuto abbassare il sistema con la corda, abbassare piano piano, ma guarda, una cosa così pericolosa mai vista. Una volta che eravamo a livello terra, allora abbiamo abbassato tutto e iniziato a smontare le antenne, ma veramente con grande difficoltà. Credo bene, lavorando a quelle altezze non è da tutti, secondo chi capita lì ha anche paura solo ad affacciarsi. Io qualche tempo fa sono andato lì a trovare un mio amico poliziotto che adesso non abita più lì, abitava lì in quel grattacielo. In effetti affacciarsi e guardare giù fa un po' di paura, anzi un po' molta, perché l'altezza è spaventosa. Io per 15 anni ho abitato al nono piano, poi quando sono morti i miei suoceri al secondo piano, allora ho venduto quella dell'ultimo piano e sono sceso al secondo, capito? Sono sceso al secondo, quindi ho aumentato le cavità e sono aumentato tutto perché i cavi sono diventati più lunghi, però non ho mai avuto problemi. Ci passeggiavo sul tetto, Luca già l'ha visto, non sto dicendo bada, ero talmente abituato e ci ho abitato 38 anni lì, quindi poi basta. Poi la nostra cosa era avere una casa in campagna, avevo già progettato tutto, per 5 anni ho cercato di andare avanti, costruire, fare, tira, molla e poi alla fine ce l'ho fatta, insomma, dai. E mi sono trasferito quest'anno, ad aprile di quest'anno, quindi è da poco che sono qua. Sono salito, diciamo, praticamente non so se sei dove, il centro ecologico, lì, quella zona lì all'interno, capito, verso Monte Bianchino, dai. Quelle zone le conosco benissimo perché praticamente quasi tutti i giorni ci passo, quando ho la possibilità, in bicicletta, faccio tutte le zone di Monte Bianchino, da una parte all'altra, strada di Osilo, arrivo anche sino a Osilo. Quindi le conosci bene, sono tutte case bifamiliari, singole, insomma tutte villette così sono. No, la mia zona è favolosa, sono contentissimo, anche se è molto più fredda rispetto a dove ero prima, perché la temperatura qua è almeno di 3 gradi meno rispetto a Sassari, quindi tu immagini, poco fa stavo guardando il termometro esterno della veranda e ci sono 10 gradi fuori, 10 gradi, magari a Sassari ce ne saranno 12-13, non lo so, qua ce ne sono 10, la mattina quando mia figlia esce al lavoro a volte ce ne sono anche 5-6, quindi è molto, molto, insomma, molto fredda come zona, ecco, perché è molto alta, tutto qua, però non mi posso lamentare, va bene, dai. La zona molto molto più fredda, ma l'aria sicuramente più pulita pure, perché sei più in alto e lì c'è meno traffico, meno smog e tutto. No, è tutto pulito, tu quando la mattina esci senti il cinguettio degli uccelli e il profumo proprio soprattutto dell'erba bagnata, della campagna, di tutto, no? E io non c'ho alberi, gli alberi sono nel terreno praticamente che circonda la casa, è sempre mio, però io ho recintato solo un pezzo per fare il giardino, però è uno spettacolo veramente. E anche quando sta piovendo e tu ti affacci in veranda, vedi quest'acqua, la strada, perché si vede la strada che porta ad Osilo, cioè è molto molto bello. Un appartamento è diverso perché non vedevo altro che via Milano e basta, non vedevo altro, soprattutto al secondo piano, poi non si vedeva niente, il parcheggio delle macchine, qua vedi tutto, molto bello. Già è bella quella zona, la conosco molto bene, ho la fortuna che quando mi affaccio da una parte ho la strada, dall'altra parte invece ho un parco che è grande, un parco privato delle suore che non hanno mai costruito, ed è quel parco che diciamo arriva sino a via degli Astronauti, all'incrocio con via Luna e Sole, dove c'è la rotatoria, c'è tutto quel parco lì dove c'è l'ulivetto dentro, quindi l'erba, e quindi anche io ho la possibilità di affacciarmi e vedere un po' di campagna, ecco. Poi già vedo tutte le campagne anche nella zona di Monte bianchino da casa. Sì, sì, sì, sì, molto, molto bello. No, ma mia figlia con il ragazzo hanno una casa, insomma, una casetta abbastanza accogliente lì a Monteoro, verso i Petitori, che c'è un canile, insomma, dove tengono i cani, eccetera, perché lui è istruttore di cinofilo, si chiama così, e quindi c'è anche dei bei cani, molto belli. E l'intenzione era andare lì, ma poi ho detto no, e quindi sono andato per la mia strada e non me ne sono pentito, perché qua è molto molto molto più bello. Ho fatto sicuramente un'ottima scelta, perché rispetto a Monteoro sei anche più, forse più vicino anche ad arrivare al centro, a tante altre cose, più in alto, insomma. Lì, no, a me piace troppo quella zona, dove sei tu è un'ottima zona, non ce n'è rispetto ad altre zone, quella è il più, secondo me. Hai fatto molto molto bene. No, qua è il top, poi c'è gente doc, veramente doc. Ho dei vicini che favola, sembra che ci conosciamo una vita, veramente una grandissima collaborazione. C'ho proprio il mio vicino che è attaccato a me, che è una persona grande, ha più di 70 anni, ma ha lavorato una vita in pasticceria, sta sempre facendo dolci, mi ha già portato 3-4 vassoi di papacini, infatti uno l'ho regalato a Roberto, sto sempre lanciando dolci, ogni tanto fa qualcosa, poi quando cucina, quando fa, sta sempre portando, facendo. C'è un orto che fa paura, c'ha di tutto, ogni tanto porta cassette, melanzane, peperoni, cetrioli, zucchine, di tutto, cipolle, di tutto. Qua veramente è una grandissima, sto benissimo, sto bene. Poi se conosci la zona sai perfettamente più o meno dove sono, dai, quindi è molto bello, molto bello. È che insomma, l'abituato a uscire dal portone, sei già prendete un caffè, qua devi sempre prendere la macchina, la moto, però rispetto a Monteoro sono molto più vicino, perché qua faccio praticamente dopo il centro ecologico e sono già in via Carlo Felice, capite? Io vado lì, perché c'è bar tabacchi, quindi non vado neanche alle poste, mai, se devo pagare la luce, se devo fare conti correnti vado sempre lì alla Sisa, perciò diciamo che non faccio molta strada. Là abbiamo passato un'estate una volta e ti dico che è un po', perché l'unica cosa vicino che hai è Preda Nieda, per il resto prima di arrivare al centro devi fare un bel po' di strada. Lo capisco, e anche lì ci sono dei posti buoni lì verso Monteoro, per carità, però indubbiamente dove abiti tu praticamente scendi a folle tranquillamente, solo la benzina per risalire rimetti, ma sei vicino a tutto lì. E sì, infatti va molto bene. Ma quando era poco, siccome ho fatto un po' di anni tra Osiro, Santa Vittoria, San Lorenzo Valle, Tergo, Buzzi, Sedini, una domenica mattina ho preso la macchina, insomma, per trovare tutti i miei ex colleghi. Il primo impianto che ho fatto, che sono gli orari quando appunto ci sono loro, sono andato a Osiro, poi da Osiro siamo usciti a Santa Vittoria, ho rivisto tutti gli impianti dove ho lavorato, ho passato una bella domenica assieme a loro, così in giro a destra e a sinistra, quindi sono anche vicino ad Osiro, capito, non c'è problema. È fatto bene, fa sempre un gran bene, insomma, rivedere amici vecchi, insomma, anche perché quando ci hai passato tanti anni e averceli vicino già è sempre un piacere, per carità. Comunque, a proposito di Alessandro, no, che ti dicevo, mi ha fatto vedere tutte le foto delle apparecchiature che ha, in quel traliccio grande c'ha pure un motore per sollevare le antenne, ha un motore enorme pure. Sì, perché il traliccio va montato a terra con praticamente lo scavo, il plinto, eccetera eccetera, pure su piatto, insomma, come fa qualcuno, e poi ci va il carrello per sollevare, il carrello motorizzato per sollevare sulle antenne col master, capito? È un lavoro, grandissimo lavoro, c'è tanto lavoro lì, tantissimo, sia per il montaggio, la costruzione, tutto l'assemblaggio di tutto, perché è un grande lavoro, l'ho visto fare dal vivo, dal vivo e ti dico che c'è un grandissimo lavoro, quindi è chiaro che non puoi appenderti per staccare le antenne, c'è il carrello che le porta giù e tu ci lavori, poi quando hai finito attivi il motore e te le riporta su, ma c'è sia motorizzato che manuale, perché c'è anche a carrucola, capito? Io non avevo quel problema perché il mio era telescopico, però era talmente pesante per poterle abbassare che ci volevano almeno sempre 2-3 persone, perché come inizi a mollare le antenne fanno peso molto dal peso che hanno e quindi boom, ti buttavano giù il sistema, allora bisogna stare molto attenti. Invece così col traliccio è diverso, capito, perché è tutto motorizzato. Bene, no, sono contento perché ci conosciamo, poi lo so, conosco perfettamente ciò che ha di attrezzatura, io non è che sono molto inferiore, adesso magari sì, ho un po' mollato, ho staccato la spina, ma prima avevo tantissime radio, adesso ne ho 7-8, forse una decina, ma sono arrivato anche ad averne una ventina, tra HF, VHF, UHF, tutto, adesso basta. Ho staccato la spina, 2 chiacchiere qua, quando è possibile e quando c'è gente ad hoc, come sto trovando in questi giorni, ma quando c'è gente che non mi interessa io preferisco rimanere all'ascolto. Ho capito, beh, anche io la penso come te, quando si possono fare 4 chiacchiere tranquille, parlare di tutto senza mai uscire dai binari è sempre meglio, quello non c'è ombra di dubbio. Comunque, vabbè, si è fatto un po' tardino, io ho finito di cenare, sono rientrato dal lavoro, domani stesso turno uscirò intorno alle 7:30-8, vedo di cambiare antenna dalla macchina, così se trovo qualcuno provo un po' a ricollegarmi dall'impianto mobile, anche se il portatile non è che va tanto bene, non è come un baracchino classico, insomma in macchina il portatile è buono ma non rende come dovrebbe, in termini di watt ovviamente. Beh, in termini di watt no, però se c'è una buona antenna, Carlo, arrivi bene, perché io mi ricordo un altro CB che viaggiava a Palottore, inizialmente aveva un portatile ma aveva una buona antenna e arrivava benissimo a Sassari, poi io da qua Alghero mi arriva fortissimo, arriva molto molto bene, quindi io ho perso, ma era un problema tuo perché non hai potenza, la ricezione è scarsa con quell'antenna, devi mettere un'antenna un po' più performante. Esatto, ma ho ancora qualcosa di antenne CB d'auto giù in garage, devo cercare, dovrei avere una di quelle stilo più lunga, della cosa del genere, ma non mi ricordo il modello, insomma come si chiama, se no già la prendo un'antenna buona da attaccare anche alla base magnetica, perché per metterla fissa dovrei togliere l'antenna dell'auto, mettere la basetta e eventualmente poi mettere uno sdoppiatore anche per lo stereo eccetera, e non so se questa sia una cosa fattibile o meno, perché devo ispezionare un po' prima lo spazio che ho in macchina per sistemarmi meglio un'antenna, se no devo andare sempre con la base magnetica. Bella rottura di balle la base magnetica, però se funziona lascia stare quella. No, questo col Galaxy ti sento magnificamente bene, 920 abbondante, radio Super 5, non so se mi ascolti bene anche a me, questo è il baracchino base che ho, il pupillino dei baracchini, gli altri sono dentro l'armadio, questo è un bel base, Galaxy Saturn Echo completissimo, è una bella radio, c'è una bellissima ricezione, non so se di radio sto andando bene. Io benissimo, chiara, limpida, forte, il segnale a bomba, fondo scala qua e senza nessuna oscillazione. E anche tu c'è un bel segnale, fortissimo. Sì, quanto è Roberto, con questa, con l'altro siete un pochino più alti, ma quell'altro più professionale, questo è leggermente un po' più sordo, però i watt sono 10, sono più che soddisfatto, arrivo da tutte le parti anche con questo, ogni tanto l'accendo, sfrutta quest'ora o la sera uso sempre questa, le altre sono tutte spente, e questa è a 220, quindi evito di tenere acceso anche gli alimentatori e tutto, capito? capito. Durante il giorno ho notato che c'è un sacco di QRM in questi giorni, ma ti arrivano segnali forti 7, 8 pure. Non so se l'hai notato anche tu, Claudio, questo. Guarda, io lo noto quando ho la mantova, perché ho la mantova su un HF e sull'altro HF ho la G-Pol. Con la G-Pol non mi accorgo di niente, assolutamente. Sull'altro giorno che stava piovendo avevo QRM 0. Ho provato con la mantova, avevo QRM a Santiago 9. Addirittura. Allora c'è una netta differenza, insomma, da averne 0 a averne 9 è parecchio. Sì, ma io ho notato che c'era sia qua che anche fuori con la macchina, sono uscito, proprio segnali fortissimi. Sì, beh, quando c'è propagazione, soprattutto in questa zona che è molto alta, la propagazione è molto alta. È molto alta. Però ti ripeto, sul QRM la verticale della J-Pol è fantastica, perché veramente ha un'attenuazione allucinante, la ricezione è favolosa, non senti il QRM ma senti proprio il corrispondente che parla, mentre invece con la mantova lo senti in mezzo al QRM, tutto distorto, tutto incasinato, tutto questo fruscio che ti arriva, capito? Questo mi era stato detto, ma tu guarda che è un'antenna eccezionale proprio perché ha un guadagno allucinante, una ricezione favolosa, ma poi non prende disturbi, non ha disturbi di QRM, non so perché. Ho capito, ma è un'antenna nuovo modello e di nuova marca questa J-Pol che stai dicendo? Ah, è uscita tantissimi anni fa lo usavano nell'esercito, come stava dicendo Roberto. Tu vai a vedere, c'è il computer e digiti Smart Tech, capito? Quella è la casa costruttrice, Smart Tech. E poi scrivi J-Pol 27, oppure 27 J-Pol. E ti dà la foto dell'antenna e le caratteristiche dell'antenna. È una 7 ottavi, non è una 5 ottavi, è una 7 ottavi, alta 8,50 m. Aspetta, sì, dopo me la cerco. Smart Tech J-Pol 27. Sì, Smart Tech mi sa che avevo visto roba di antenne tempo fa, però me la vado a vedere perché sono curioso, perché se ha queste caratteristiche, insomma, dovrebbe essere una buona antenna. È favolosa, è quasi un'antenna HF, perché io ci parlo anche in 40 metri, in 20 metri, in 10 metri, in 21 e 18 bisogna l'accordatore, ma 7, 14, 21 e 28 ti dico che non ho bisogno di niente, non ha stazionari, ha una ricezione favolosa anche in HF, è una buonissima antenna, è tutta in alluminio, abbastanza robusta, al Balum è già incorporato, già diretto 1-1, ha degli isolatori fantastici, poi il montaggio è fantastico veramente, vai a guardartela, leggiti le caratteristiche, tiene 5 kW, è un'antenna eccezionale, è tutta in tutti i raccordi, tutta la raccorderia, tutte le staffe, tutta in acciaio inossidabile, gli isolatori sono tutti in teflon, bello buono, l'isolatore del PL è tutto in bachilite, non c'è bisogno di praticamente vulcanizzare l'antenna, perché il tubo sotto è praticamente aperto, dove entra l'acqua da sopra, cammina nel tubo stesso all'interno senza danneggiare niente e scende da sotto come un rubinetto. È fantastica, veramente fantastica. Oh, Claudio, ma non è che c'è il CD dell'Appennina? Perché questa qua non è autoinstallata, ci vuole il CD. Il CD dell'Appennina? Dell'Appennina di che cosa? Della TP-Link, della Wi-Fi. Ah, non lo so. Mi stai chiedendo adesso delle cose che non... Se c'ho CD, dove cazzo è il CD del TP-Link? Se non ho la scatola da qualche parte, ma non penso. Beh, perché... ci vuole la cosa, ce l'ho io, però quella lì non c'è, la tua è la TLWN722N. Adesso vediamo un po' se c'è qualcosa in rete. Boh, Lu, se c'è la pennina, da qualche parte va bene anche la scatola col CD, però mi dà il tempo di cercarla, Lu, perché nel magazzino al Carveglio scatola ce n'è un bel, devo aprirla tutte e controllare se trovo la scatola della pennina. Ragazzi, io senza fretta, se riesci a trovarla è bene, perché sto cercando i driver su internet, vediamo un po'. Controlla, Lu, comunque da qualche parte dovrei averla, perché ti ripeto, la pennina l'avevo presa nuova, quindi da qualche parte devo averla. Sto vedendo la SmartTech 27 col cellulare, ho trovato, è senza radiali questa cosa, e ha due, sì, vedo come è fatta la base, ed è lunga, alta 8 metri. Sì, 8 metri e qualcosa, 8 metri e qualcosa, non 7 ottavi. Hai visto a fianco come è fatta? A fianco c'è l'altra antenna attaccata, che è la J-Poll, dove lo stilo è telescopico fino a 2,50 m per la taratura e la regolazione dell'antenna. Sì, sì, la sto vedendo. Che palo di sostegno, diciamo, necessita questa antenna qua? Guarda, qualsiasi tipo di palo, perché la qualificazione, visto come aggancia, c'è i due cavallotti, ma tutta una scia inossidabile, no mondezza. Quindi io, per non leggere né scrivere, l'ho qualificata da 45, con un tubo da 45. Ho fatto il 50 sotto e il 45 a farlo telescopico. Ma quella, stai attento che quell'antenna lavora anche 2 metri da terra, Ho capito, io sono anche abbastanza alto, perché praticamente dal piano del tetto c'è una piccola tettoietta che sarà tipo 1,50 m, e io salgo sopra quella tettoia praticamente, quindi io attualmente l'antenna ce l'ho molto molto più alta rispetto al piano del tetto, sarà almeno 4-5 metri. Ma ti ripeto, quell'antenna, se tu la metti attaccata alla ringhiera del poggiolo, funziona bene lo stesso, perché se tu leggi le caratteristiche è un'antenna che lavora anche 1 metro da terra, non ha problemi, sono fatte apposta. La mia, ad esempio, sta lavorando a circa 4 metri dal piano del giardino, capito? Dal terreno del giardino. Guarda come va, se la tiro su 7-8 metri è da paura, capito? Va molto bene, leggete bene le caratteristiche. Allora ti dico che costa 180 euro più 20 euro di trasporto pagato io, 200 euro. Sì, sto guardando sul sito, ci sono tutte le foto di come è piazzata, addirittura c'è gente che la mette a 2 metri, 3 metri dal giardino praticamente, oppure magari su tetti. E qua mi dice verticale J-Poll 27, costo 166, però considera spese di spedizione, tutto sarà 200 euro. Io l'ho pagata 180 più 20 di spedizione, e penso che sia l'unico in Sardegna ad averla, perché il venditore ufficiale per tutta l'Italia non mi ha mandato niente in Sardegna. Io, se tu vuoi vedere, c'è un video su YouTube, quello l'ho fatto io, l'ho mandato al venditore perché me l'ha chiesto lui, proprio perché voleva vedere il funzionamento e tutto, e poi lui l'ha messo su YouTube. Sì, già me lo guarderò anche lì su YouTube. Sì, è interessante che come prezzo non è tanto, dai, non, se ha tutte queste buone caratteristiche e prestazioni, insomma. Poi mi sembra anche facile da montare, perché non ha diciamo radiali eccetera, non mi sembra neanche molto pesante, ecco, e quindi anche se è abbastanza alto, 8 metri, però mi sembra una cosa abbordabile. Ma pesa 7,5 kg, io con una mano l'ho infilata dentro la sede del tubo, con la scalettina da 2 metri, perché il palo appunto era già attaccato al muro, per andare sul telescopico con una mano l'ho messa dentro e poi l'ho stretta. facilissima sì da montare, perché c'è tutto scritto, ci sono tutti i segni che tu devi rispettare, S1, S2, S3, tutti i punti di riferimento ti dà quando arriva, capito? È facilissima da montare. Poi una volta che l'hai assemblata, la metti su un cavalletto a un metro da terra e te la tari a terra. C'è il telescopico, quello che è attaccato, che arriva sino a 2,50 m, quello ti arriva tutto chiuso, tu molli la gaffettina e tiri su. Io quando è arrivata l'ho collegata, c'erano 16 stazionarie. Ho iniziato a tirare sullo stub, piano piano, è scesa al 0,80, 0,8, praticamente neanche uno di stazionaria dal canale 1 al canale 80. Sì, ho visto. Come stazionaria non mi posso lamentare neanche io con questa antenna, che diciamo, essendo un dipolo che ha ovviamente l'altra estremità che ha questa manca, però ha il gamma match, e anche io sono riuscito a ottenere una buona regolazione, quindi anch'io stazionarie non si muove praticamente, quindi dovrebbero essere inferiori all'1 a quel punto. Beh sì, 0,8 sono inferiori all'1, certo, non è 8, 0,8 sono inferiori a 1, ma se tu vai a comprare quell'antenna non te ne penti. Io la Mantova uso il radio sempre dove c'è collegata questa. Adesso qua ad esempio sono con la Mantova, perché il Galaxy è sotto la Mantova, l'altro un HF è sotto la Mantova, ma quando mi senti io sto usando sempre quel tipo di antenna. Adesso sto usando la Mantova 1, e anche questa è una bella bestiolina, ce l'ho tanti anni, gli ho fatto un po' di manutenzione, me l'ho trucidata, ho messo i radiali nuovi che ce l'avevo in fibra sempre, ed è venuta una bella antenna, non c'è problema, però funziona sempre. Però questa è un po' particolare perché è vulcanizzata, c'è un doppio lavoro, quella ci ho messo 10 minuti, perché ti ripeto, non va neanche vulcanizzata, tu la piazzi, sono tutti punti di riferimento. Poi quando metti lo stub uno con l'altro e metti la fascetta, oltre alla fascetta c'è il segno dove tu poi chiudi con la vite, quindi c'è una doppia serratura, diciamola così, doppia cosa che ti permette che lo stilo rimanga ben fermo senza anche quando scilla, poi si può mollare la fascetta. Invece ci sono le viti che mantengono anche il tubo, capito? Sto guardando sempre le foto di questa antenna e insomma la gente che l'ha installata ne parla in maniera fantastica, no? Anche chi era scettico e poi l'ha provata, leggo che insomma sono tutti soddisfatti. No, ma infatti io adesso ho voluto fare la prova perché la Mantova è a circa 6 metri, 7 metri di altezza. Non arriva a superare questa che è a 2 metri, perché con questa, cioè con la J-Pole alla Mantova le prendo 5 punti S da tutte le parti, sia come ricezione che trasmissione. Quest'estate tolgo la Mantova da dove è, che è molto più alta, e lì ci metto la J-Pole, la Mantova la tolgo direttamente, ne tengo una di antenna, capito? Intanto c'ho la commutazione a 5, perciò con un'antenna posso fare andare 5 radio, è più che sufficiente, e ne tengo una solo. Per quest'anno è andata così, perché la volevo sperimentare, però adesso che l'ho sperimentata la tiro su all'impicco, la metto almeno 7-8 metri dal piano di terra e deve volare, perché più alta è e più resa ha, capito? Capito, col vento come si comporta? Flette molto oppure è stabile? Assolutamente, guarda, io non ho manco tiranti adesso e ti dico che mentre la Mantova è tirantata, perché è un po' 4 metri più alta, però ho visto ad esempio quelle raffiche di vento, c'erano dei maestrali ieri, l'altro giorno a Libeccio, eccetera, flettono gli ultimi due elementi perché sono un po' più fini rispetto all'altra metà, ma assolutamente no, perché è molto molto robusta essendo doppia. Hai visto com'è fatta, no? Che c'hai le due, c'hai il centrale, poi c'hai i due tiranti in acciaio inossidabile a piastra, dove ci sono gli isolatori, che congiunge la J-Pole, capito? Quindi molto robusta lì. perciò i primi 4 metri, 5 metri sono molto robusti, gli altri 2 metri e mezzo un po' flette, ma normale, no? Non le fa niente. Sì, ho capito, in effetti sì, diciamo mezza antenna è collegata bene, ci sono i due isolatori che in effetti la dovrebbero tenere ben salda, la parte finale magari già tiene, allora forse per quello che non ha bisogno neanche di mettere tiranti, in effetti è stabile per quello. Molto interessante, se dovessi cambiare antenna mi sa che un pensierino su questa ce lo faccio, anche perché il prezzo diciamo è abbordabile, dai, non è eccessivo, la spesa è eccessiva, insomma. Guarda, io proprio l'altro giorno ero al telefono con questo venditore perché le stavo chiedendo altre cose, l'ho chiamato perché c'era un altro MC60 la chiamato, ma purtroppo non ne stavamo parlando, ma ho detto guarda, se vuoi io te ne mando anche un'altra, la tieni tu, quando riesci a venderla, quando la vendi, se te la chiedono mi mandi i soldi, figurati la fiducia che ha. Quindi sto pensando di farmela mandare un'altra e tenerla, poi se serve a qualcuno gliela do, quanto chiaramente senza il trasporto, senza niente, la pagherà il prezzo insomma di 160 euro, ecco. È interessante la cosa, se non lo so, se ti capita, se lui te lo ripropone, fatela mandare, male che vada me la prendo. Sì, c'è anche Uranio, Francesco di Usero, che la vuole, infatti sta barattando con Fusaro, gira che ti gira, ma la faccio mandare a Vittorio, questo appunto venditore, gliela do io, perché se vado a Fusaro lo spella, capito? Perché chiaramente io vado a comprarla dal venditore ufficiale, se tu vai a comprarla dal venditore ufficiale poi la devi rivendere, chiaro che ci devi guadagnare, chissà quanto le metti in ricarico, è un casino. Adesso vediamo, tanto lo devo sentire lunedì, ma detto chiamami lunedì, vedo se riesco a procurartelo un 60 buono, così te lo mando giù. Le dico di mandarmela un'altra, così la tengo io e nel caso serve a qualcuno gliela do, capito? Già anche assemblata, solo da mettere il radiale centrale, no, non c'è problema, mi diverto io a fare queste cose. Fatela mandare, fatela, che no, non la terrai per molto, sicuramente me la prendo io. Una bella antenna, guardati bene, leggiti bene le caratteristiche che ha, una bellissima antenna, veramente non ha radiali, bravo, quindi non prende quegli spazi che devi avere, la puoi attaccare anche la ringhiera con una staffa, no? Come ad esempio, adesso dirò anche a Saverio che lui sta cercando una soluzione del genere, la metti sulla ringhiera, è 8,50 m, ma quel J-Pol che tu vedi, il radiale da 2,5 m, quello è omnidirezionale, capito? È praticamente come una direttiva, no? Fa da direttore. Io l'ho girata leggermente verso la Ginara, ma ha una ricezione favolosa, veramente favolosa. E lo credo, no, vedo che è una buona, dalle foto vedo che uno l'ha messa proprio, non dico sulla ringhiera, ma su un cordolo vedo, di un tetto, perché si intravedono le tegole sul sito, no? Ed è anche abbastanza in basso, diciamo è molto molto interessante questa antenna, è affascinante insomma. No, vai tranquillo, tanto poi io sono una vita in radio, sono entrato nel 1974, la prima antenna che comprai era la Super Rangibus, che allora è simile un po' alla Mantova, e ho continuato sempre con questi tipi di antenne 5 attati, capito? Quindi sono amante, io le ho usate tutte, dalla Super Rangibus, la Mantova 1, la Mantova 5, la Mantova Turbo, poi sono tornato alla Mantova 1, poi la 5, adesso ho di nuovo la 1. Però a caratteristiche e prestazioni questa mi ha veramente entusiasmato, infatti ti ripeto, toglierò la Mantova prossima estate, perché adesso mettermi a fare lavori d'inverno c'è freddo, poi magari puoi trovare la giornata che insomma non va bene, lascio tutto così, d'estate, primavera, tolgo la Mantova e lì metto la J-Pol e la tiro su al massimo 6, 7, 8 metri, quello, tutto ciò che ho di sistema telescopico lo tiro su. Te lo stavo dicendo perché in questi giorni mi avevo messo a posto il garage e ho trovato un tubo che non so da quanto sia, ma è ferro zingato, quindi non si è arrugginito, ce l'avrò forse 30 anni ed è ancora proprio nuovo, e magari se quello lo fisso bene con le staffe, praticamente la posso anche sistemare lì questa antenna prendendola, perché un tubo adesso non ricordo da quanto è, ma è molto molto molto grosso, è bello stabile, ha dei fori per eventualmente infilargli in un altro e poi avvitare i bulloni per renderlo eventualmente telescopico, però non mi ricordo da quanto è il diametro, quindi lo devo andare a vedere, però è molto robusto, quindi sto pensando di portarmi quello sul tetto, che è un tubo da 4 metri, eventualmente lo accorcio anche un po', perché avendo quell'antenna essendo lunga 8 metri, se no poi alla fine se ne va proprio sulle stelle quasi. Ah, ma quello puoi mettere anche un tubo da 2 metri, cosa le fa? Una volta che è in alto, il livello di terra è quello che conta, capito? Non hai problemi di diametro, perché è fatto a cavallotti larghi, mi pare che arrivi fino a 60, perciò puoi mettere anche un tubo da 40, da 50, da 55, anche da 60, ma da 60 è quello grosso, io ce l'ho, è grosso, caspita, da 60, quindi è molto pesante, perciò lì puoi mettere un 40, un 45 tranquillamente, che equivale a un pollice e mezzo, non di più, un pollice e mezzo puoi mettere, secondo i pollici, quindi va benissimo, un tubo normalissimo, basta che sia zingato, che sia buono, e poi lo chiudi con i cavallotti, e guarda, è fatta veramente bene, se tu la vedi dal vivo, ma lo chiamo lunedì, dico di mandarmene una così da sballo, te la faccio vedere proprio dal vivo, te la faccio vedere dal vivo come è fatta. Veramente entusiasmante vederla, già questi isolatori con queste piastre che sembra montare una direttiva, veramente molto bella, ma soprattutto funzionante, capito? Capito. Va bene, Claudio, interessante la discussione, insomma, quando si parla di radio, di antenne, a me sempre mi appassiona, mi ha sempre appassionato, io lo stesso con le radio CB sono, insomma, dagli anni 78, 80, anche io qualche anno sulle spalle ce l'ho, capito, però tante volte ho pensato di fare l'esame per diventare radioamatore, ma poi per le questioni di lavoro, di tempo, di spostamenti, trasferimenti, famiglia, eccetera, tra una cosa e l'altra non ci sono mai riuscito, e adesso poi i turni, lo stesso frequentare un corso, come fai? Sono io 30 anni che faccio i turni di lavoro, quindi quando sei di mattina, di sera, eccetera, per cui con la 27 invece è un pochettino più semplice, magari la gestione, una volta che azzecchi una buona antenna la metti lì, finché non te la distrugge il tempo, le intemperie, non la tocchi più. No, guarda, questa non te la distrugge così facilmente, perché c'è un alluminio molto molto robusto, ma poi si vede che è fatta bene. Poi se vai a guardare la Smartec, è una casa costruttrice favolosa, costruisce anche dei poli, direttive, insomma costruisce un po' di tutto. Va bene, ok, dai, io ti saluto, sono entrato per essere a Robe, fai due chiacchiere, trovate a te, per me è lo stesso. Saluto anche a Luca e ci sentiamo domani, ok? Bene Claudio, alle prossime. Luca era impicciato col computer, mi sa, lo saluto anch'io se è ancora in ascolto. Ci sentiamo alle prossime, buon tutto, ciao, buonanotte. Ciao Carlo, ciao, buonanotte, ciao Verie.